Yeah, you couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. That's what the hell is that? Go tango, tango. There's kind of light there now. Roger, we got it, we've marked it. Lose communication. Bravo tango, bravo tango. Buonasera, no, buonasera, adesso funziona. Buonasera, buonasera, caro maestro. Buonasera a chi ci... Buonasera. Sì. Buonasera. Buonasera, buonasera. Siamo in un regno strano, maestro. Dove mi hai portato? Che tana è questa? È tutto molto lontano. Io non... Cose nuove davanti a me. Dove siamo quest'oggi? Oggi siamo... Trasmettiamo da un avamposto. Un avamposto, è nuovo anche per me questo avamposto, stiamo cercando qualcosa? Stiamo cercando qualcosa e soprattutto non ci ferma niente, come dire, il confine, l'orizzonte non c'è. E anche oggi, mio caro maestro, sono felice di annunciarti i nostri cari ospiti. Stiamo proseguendo questa partnership assai gustosa. Assai gustosa, siamo di nuovo con due personalità del DUSA. È tornato a trovarci il caro professore di solaristica che abbiamo conosciuto nella scorsa puntata. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera. Buonasera, bentornato. Grazie di nuovo per essere qua, essersi sottratto ai suoi impegni, per essere qui con noi. Il piacere è tutto vostro. Senza dubbio lo è. Però assieme a lei abbiamo visto che oggi ha portato non il suo assistente, ma un geografo dei continenti perduti che abbiamo del resto conosciuto nella prima puntata assieme al DUSA. Buonasera intanto anche a lei. Buonasera, buonasera a tutti, sono felice di essere di nuovo qua con voi. Molto felice anche noi di averti qui, ma come ovvio ti do del tuo, a differenza che all'esimio professore. Del resto questa partnership, cioè, doveva continuare in qualche modo il numero di voci autorevoli all'interno di questo programma non è mai stato così alto. E nemmeno gli ambiti e i campi nei quali abbiamo deciso di spaziare del resto. Nota, spaziare, non so se... Spaziale! Molto bene, quante cose di cui parlare oggi? Non molte in realtà, perché staremo attorno a una figura, a una persona, a una persona, è giusto maestro? A una teoria. E anche, o forse a una teoria esso stesso, sì? A un'idea forse. Mi verrebbe da dire un'entità. Comunque funziona tutto in questo avamposto, che bello, e quindi facciamo così, mettiamo subito il riassunto della prima puntata col DUSA, che devo ammettere è stato veramente difficile scegliere quale fra le molte vette raggiunte selezionare per questo riassunto, e l'ho comunque fatto. Ti ringraziamo per la regia. Ringrazio io voi per tutto il materiale che mi avete fornito, quindi maestro, tu... Adesso sei pronto a metterla? Molto bene, questo avamposto è veramente efficiente. E poi ritorniamo con il DUSA, il Dipartimento di Ufologia e Scienze Alienistiche, e parleremo di... Biglino. Ecco come no. Con noi oggi, quest'oggi ci sono due ricercatori. Fanno parte del DUSA. Buonasera, buonasera. Astronomia zetetica. Cos'è il DUSA? Il DUSA altro non è che il Dipartimento di Ufologia e Scienze Alienistiche. Il maestro in effetti ha ragione, la luna è cava. Di solito tra le stelle ci si riconosce in qualche modo. Tutte le parentetiche necessarie sono... necessarie, quindi vanno prese, vanno aperte, vanno sviscerate e poi nel caso chiuse. per essere poi riaperte in un secondo momento, come fanno con i cadaveri alcune persone. Partirei allora dallo spiritismo, sì. Già Aristotele parlava di spiritismo nella Metafisica, libro quarto. I marinai sono una fonte di conoscenze inesauribile. È importante anche avere i canali del chakra aperti. È un lavoro entusiasmante quello che fate. Mi domando, l'Erasmus. Un interessante Erasmus che c'è stato, mi sembra, negli anni 80, era nella costellazione dell'Ofiuco, insieme agli Anunnaki. Eso Erasmus. Come facciamo a difenderci dagli attacchi di chi è al di fuori della nostra dimensione, o comunque che ne possiede almeno una in più di noi? Un ruolo fondamentale lo gioca l'energia cosmica, il Vril. C'è l'annosa questione delle ricerche dei punti d'ingresso della Terra Cava. C'è un bel saggio di Jules Verne che, diciamo, lui poi ha riadattato come romanzo. Oltre che ricerche, scusami, organizzate anche delle visite, degli accompagnamenti guidati? Certamente, il DUSA ormai da tempo ha accordi con le autorità municipali della città perduta di Shambhala. Io Drill ne voglio un botto, se è possibile. Vediamo quanto ne è rimasto, aspetta, diamo la canzone. Il 27 ottobre del 1954, durante una partita amichevole, visto Iese-Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, gli spettatori e i calciatori hanno dovuto interrompere la partita in corso in quanto degli oggetti misteriosi, non identificati appunto, sono stati avvistati sfrecciare nel cielo. Si è parlato di Bambagia Silicea. La Bambagia, la terra del latte e del miele. Ed è stato appunto uno degli avvenimenti che ha portato direttamente alla nascita del DUSA. Ci sono i corsi e gli specialisti in materie più scientifiche, che come appunto l'ufologia, ma anche la colonizzazione del cosmo, la terraformazione di pianeti, e altre invece materie più umanistiche o esoteriche, come la cartomanzia, appunto lo spiritismo, l'ufologia umanistica. Quindi è un toroide. Sonde di Bracewell, Dumba cosmici, Seti Neutrinica. Firenze è stata fondata nel 1972, lo sanno tutti. Il maestro, con la sua saggezza, credo che stia per diventare un laureato ad onore del... Oh, che onore! Quale onore! Quale onore! Forse non lo alla merito. Carriera. Forse non lo merito. Comunque singolare il fatto che ogni evento, come dire, di qualche rilevanza, no? L'alluvione, l'amichevole con la Pistoiese, in qualche modo porti poi ad un avvistamento e ad un evento ufologico. Questo è molto interessante. Molto bravo, maestro. Anche senza cuffia, maestro. Virtuosismi. Maestro, non hai la cuffia, in effetti, e forse se riesci a alzare un po' la voce è meglio, mi rendo conto, siamo in questo... Virtuosismi! Ah, che virtuosismo! No, ma cianciamo un po', direi, prima di entrare nel merito della personalità di oggi, se sei e siete d'accordo. Certo, che è un'altra personalità, se posso permettermi, e se gli esperti, come dire, saranno d'accordo, anzi, magari porgo la domanda, un altro virtuoso o comunque qualcuno che ha cercato di indagare un certo tipo di fenomeno attraverso uno studio comunque da... Passatemi il termine. Uno studio, direi, alternativo e però comunque rigoroso. È rigoroso, vero? Sì, potremmo dire che è lo studioso, appunto la persona di cui parlare. Molto bene, però io invece, prima, per rimanere in queste terrestri banalità, vi vorrei chiedere: l'avete visto Sanremo ieri? Ah. Io non guardo Sanremo ormai da diversi anni, dopo che al corso di teorie tecniche del complotto ho scoperto che, insomma, è tutto gestito dagli Illuminati. Lo sapevo! E diciamo, il vincitore in realtà è quasi sempre un alieno che ha strapagato i giudici. Ok, questa cosa mi interessa tantissimo. Quale delle parti, però? Cioè, nel senso, noi abbiamo già, come dire, accennato anche nelle puntate precedenti che gli alieni sono varie razze, varie specie. Abbiamo detto, precisato. Ah sì, giusto, poi siamo arrivati a questa conclusione, ma il concetto poi è anche appunto varie fazioni politiche e di alleanze all'interno stesso di una... di confederazioni. È vero, la politica sicuramente conta, ma un po' come anche tutta la storia dell'umanità conta soprattutto l'economia, quanto si è in grado di corrompere qualcuno, e dobbiamo dirlo, purtroppo gli alieni hanno grandi quantità di denaro o comunque di oggetti preziosi con cui possono comprare molte cose qua sulla Terra. Ok, allora quantomeno, se non, cioè in generale, io lo chiedo in generale, ma se non in generale anche solo per quest'anno, qual è la specie favorita? Qual è la fazione favorita? Questo purtroppo non posso dirlo, altrimenti rischierei di passare dei grossi guai. Posso dire che i Maneskin, chiaramente... I Maneskin, certo. I Maneskin, chiaro. Non... Già dal nome poi così esotico. Non, sì. Sì, Aldebariano dei Maneskin. Aldebariano, ovvio. Damiano dei Maneskin, diciamo, non ha il viso simile soltanto alla principessa Diana. Io vorrei portare gli ascoltatori a guardare un grigino e a raggiungere delle conclusioni, ecco. Fare le sue personali illazioni, deduzioni. Fa ridere, ma fa anche riflettere. Fa soprattutto riflettere, direi. No, fa ridere pensare alla faccia, sì, di Damiano. Sì, sono d'accordo, diciamo, fa molto ridere. Ma fa anche molto riflettere. Fa anche molto riflettere. Vorrei far presente l'ultima cosa. Chiaramente so che non si dice Maneskin, ma a me fa molto ridere chiamarli in questo modo, e perciò continuerò a farlo da qua finché esisteranno. O finché esisterò io. O finché non riusciremo a imporre questo diverso accento sul loro nome. È già successo molte volte nella storia della musica. Sì, certo, ora mi sa che il professore non sa minimamente di cosa stiamo parlando. Non vorrei. No, lo vedo il professore, in effetti è qui intorno a noi che scuote la testa con la sua saggezza, che con noi giovinastri non viene a confondersi, mi sembra. Sì, non preoccupatevi, il professore può riposarsi tranquillamente, dopo tutto ha una certa anzianità. Ah, pungente. Ma purtroppo, o per fortuna, questa persona nel mio dottorando, per cui non rientra particolarmente sotto la mia giurisdizione, però vorrei ricordare in realtà che io seguo Sanremo perché c'è quel giovincello di Gianni Morandi, voglio dire, me lo ricordo, insomma, quando io avevo già, insomma, una certa età, mi ricordo che cominciava a fare le sue prime canzoni, grandi anni. Beh. Ma invece, professore, perché il suo assistente oggi non è con lei? È deluso dalla sua partecipazione alla scorsa puntata o cos'altro? Ma in realtà il mio assistente si trova, diciamo, in una sorta di, possiamo chiamarlo, puttan tour, diciamo, nelle zone più remote del nostro sistema solare, perché è stato, diciamo, cooptato da una bella nettuniana, insomma, non ci ha capito più nulla e conseguentemente, voglio dire... Anche a ragione, professore, si sta intrattenendo in altre attività. Professore, mi sembra che lo abbia, insomma, come dire, non corrotto, ma quantomeno portato un po' più dalla sua sponda, se penso alla scorsa puntata. Bene, professore, è riuscito... Beh, voglio dire, sono tante le arti che si devono apprendere da un maestro. Bene. E invece oggi è tornato con noi il ricercatore di geografia dei continenti perduti e della Terra Cava, sì, sono tornato. Che ricordo, perché... per chi non ci avesse ascoltato, insomma, che la scorsa puntata non è stato con noi, aveva un impegno. Dove si trovava? Sì, ero impegnato in alcune ricerche proprio all'interno della Terra, soprattutto catalogazione di piante e di animali. Comunque vorrei fare anche, aprire una parentesi, un inciso. Probabilmente il ricercatore del professore è semplicemente fuggito dalla vecchiezza su cui... insomma, da cui stava venendo un po' attanagliato. Ma posso fare... Fuochi e fiamme, fuochi fiamme sento qui su Radio Wombat nel Dusa. Sì, prego, professore. Io vorrei ricordare che un recurring joke del dipartimento è il fatto che i dottorandi del corso di geografia dei continenti perduti molto spesso non riescono a trovare nemmeno la stanza, diciamo, dove dovrebbero compiere i loro studi, quindi ecco, diciamo che molto sì. Belle queste barzellette dei dipartimenti, molto belle. Sì, sì, interdipartimentali. Sì, sì, sì. Sta di fatto che io invece ho trovato sugo molto interessante, infatti sono prossimo alla mia prima pubblicazione da ricercatore chiaramente, certo. Poi alle mie spalle ho diverse pubblicazioni da studente, certo. Anche su... alcuni seminari soprattutto su... Tenuti solo sulla Terra, no? Sì, personalmente però ancora anche un po' all'interno, sì. Magari. Ho avuto diverse videoconferenze con, diciamo, i nostri amici spaziali, però non sono mai stato ancora nello spazio io, certo. Personalmente. Ma ora io di fronte a questo ritorno a lei, e se non addirittura se gradisce al voi, di cosa si sta occupando? Cosa sta per pubblicare, quindi? E ancora una volta non posso, diciamo, espormi troppo sul materiale che pubblicherò. Posso dirvi un però... caso? Il professore si espone di più, in effetti, c'è da dirlo. Certo, forse perché io ho qualcosa da dire? La pubblicazione è sui canyon all'interno della Terra. Spariccione! Professore! Guardi, lei ha una certa età e non dovrebbe proprio... permettersi, siamo comunque in radio, di dire delle cose del genere. Calmiamoci gli animi. E le ricordo comunque che è stato richiamato all'insegnamento grazie a questa riapertura del DUSA. Poteva anche non tornare se ciò che doveva portare erano battute di così basso livello. Ma insomma, non tergiversiamo su delle lotte intestine all'Accademia, anche perché, nel senso, sì, l'Accademia, d'accordo, l'istituzione, però noi qui siamo anche per portare ciccia e contenuti a un discorso riguardante una personalità. Bravo maestro, riconducici all'ordine. Vi ricondurrò all'ordine, non perché non mi interessassero queste lotte intestine, anzi, ne ero già totalmente rapito. No, in realtà, scusate, ci rendiamo conto che queste conversazioni dovrebbero avvenire a porte chiuse e chiedo scusa al pubblico. Ma io invece penso che il pubblico sia interessato anche a questo tipo di dinamiche. È una radio nuova quella che facciamo, d'altronde, insomma, le porte del dipartimento è bene che siano aperte a tutti i nostri ascoltatori. Grazie, anzi, sì, per sì, questo sì. Scambio di realtà con noi. Grazie davvero. Questa è proprio realtà, davvero. Però appunto, ritornando invece a quella che forse è sì una realtà, però... più come dire, un racconto, quantomeno un ragionamento sul racconto, mi viene da pensare, no? E allora vorrei porre innanzitutto una domanda al nostro ospite ricercatore. In diversi come dire, passi che vengono analizzati dallo studioso, da Biglino, si fa riferimento a diversi riferimenti geografici anche all'interno della Bibbia, proprio perché piccola premessa, no, faccio, piccola premessa, media stress. Il nostro protagonista, diciamo, di questa puntata ha compiuto diversi studi di interpretazione, soprattutto filologica, su questa parola che alle volte non si... ma invece che, come dire, i nostri esperti masticano abbastanza bene, mi verrebbe da dire. Perfetto. Con i pochi denti rimasti. e praticamente all'interno di questo studio, di questo ragionamento che fa, quindi... fa anche una riflessione su quella che è proprio il tragitto che fa il popolo ebraico all'interno dell'Esodo, giusto? Assolutamente, assolutamente. Allora... io ho una domanda su questo. Posso... no. Già stavo per immergermi in una risposta. Ho una domanda. Ora, forse non tutti sapranno la storia, magari, adesso, però ad un certo punto, dopo che Mosè fa scappare gli ebrei dall'Egitto, iniziano a vagare per il deserto, praticamente, questi, per, non so, 40 anni. una cosa così. I geografi, quelli delle istituzioni, diciamo, non... esatto, quelle canoniche, quelle... quelli collusi con i poteri forti. Sì, quelle anche un po' noiose, insomma, quel tipo di istituzioni, dice, hanno provato a fare i calcoli, hanno provato a vedere, questi sono stati 150 anni nel deserto, non mi ricordo, 40 anni, una cosa così, comunque un tempo infinito, e dice, non era un deserto così grande, cioè questi devono aver proprio girato intorno, dovevano aver fatto tutte le cose. Io ho una domanda, ma c'è una spiegazione geografica o si può parlare solo di sadismo e poi scopriremo di chi? Ma è una domanda assolutamente interessante. Mi verrebbe semplicemente da dire che non bisogna mai fidarsi dei calcoli degli storici, soprattutto per tempi così antichi. Si dice che abbiano vagato nel deserto per così tanto tempo, ma contando che sono stati guidati da queste entità di cui parleremo in questa serata, io non credo che fosse un semplice vagare. C'era un piano prestabilito che noi purtroppo non conosciamo, perché le fonti sono andate perdute. Benissimo, io avevo fatto appunto anche questa domanda, mi sono permesso per, come dire, introdurre anche un attimo il setting. Grazie. Magari non è stato il miglior modo per farlo, però insomma è un modo come un altro. No, è stato un modo molto molto interessante. Queste domande che non trovano spesso risposta sono sempre le domande più rilevanti. E le mie preferite. Da qualche punto di vista, perché spingono in qualche modo la ricerca. Il continuare a cercare... e il continuare a indagare su certi avvenimenti. Esattamente. In questo senso, quindi, vorrei invitare anche il professore, se avesse voglia, a darci, come dire, un'introduzione forse un po' più lineare e ragionata di questo argomento. Allora, prima di tutto, due parole sulla figura del professor Biglino. È un mio collega, ricordo di grandi esperienze condivise, alcune condivisibili, anche altre no. All'epoca... Noi radio vorremmo ovviamente sapere, ma ci tratteniamo magari più tardi su questo. Sì, ecco, diciamo che io ho appena riacquisito la cattedra, vorrei evitare di perderla. Ok, diremo solo spring break. Ecco, e il collega Biglino, diciamo, si occupa della questione dell'intelligenza aliene con un approccio finzionalista che non, è, come dire, non appartiene molto allo spirito di chi parla, perché lui adotta il metodo del come se facciamo finta che esistano. No, no, diciamo le cose come stanno. Esistono gli Elohim, hanno progettato la razza umana all'inizio dei tempi come metodo di servizio, come, diciamo, dei servitori perfetti. L'hanno progettata proprio. L'hanno progettata con l'ingegneria genetica, e questo lo dice la Bibbia, che ricordiamo essere un testo assolutamente inossidabile dal punto di vista della verità. Certo. Tutte le righe della Bibbia, specie quelle contraddittorie, e appunto, come dire, egli con un approccio filologico, come già veniva menzionato, dà una lettura diversa, potremmo chiamarla una lettura più immanente, quando non addirittura alienistica, di alcuni passi fondamentali della Bibbia. Certo. Professore, io mi starei anche quasi addormentando, mi può avere un tono di voce meno da vecchio e più da... ci dica qualcosa lei se ha... Ma io, per quello che posso dire su Biglino, diciamo, inizierei da una citazione. I teologi parlano come se la Bibbia non esistesse, e questo è, diciamo, il punto di partenza fondamentale della tesi di Biglino, che è anti-teologista, dobbiamo ricordarlo, e analizza appunto la Bibbia in un modo stupefacente. Anti-teologista, mi scusi, anti-teologista nel senso che non ci sono gli dèi. Diciamo, gli dèi sono qualcosa di diverso, sono qualcosa che noi non siamo abituati a pensare, sono qualcosa come gli uomini, o meglio, gli esseri umani, per tutte le altre specie. Questi dei sono esistiti, sono stati chiamati così perché avevano delle straordinarie capacità sia fisiche che mentali, erano di una stazza, di un'altezza e di una grossezza, diciamo, più grossa, più elevata di quella degli esseri umani, dell'umanità, e come diceva appunto il signor professore, l'essere umano è nato proprio da questa ingegneria genetica. Però dobbiamo chiederci perché è stato fatto nascere l'essere umano? E la risposta è una sola, perché in un qualche modo questi esseri avevano bisogno di giardinieri, di pastori, di qualcuno che amministrasse le terre che erano andati ad occupare. E così semplicemente hanno dato vita alla nostra specie. Una sorta di servitù. Una sorta di servitù, esattamente. Non proprio schiavi, ma proprio servi. Schiavi. Complimenti, maestro. Lei, come sempre, è un passo avanti agli altri. Sì, caro maestro, sono d'accordo, potrebbe essere il momento della canzone, perché per chi avesse sentito tutti i rumori panoramici intorno, ero io che cercavo l'alimentatore. Quindi, canzonaccia e ritorniamo su Bellino Grande. Again. Mi sembra che ci siamo, sentiamo e funziona tutto. Avanti tutta con Mauro? Mauro Biglino, giusto? Mi sono distratto, il torinese di cui stiamo parlando. Mauro Biglino, esattamente. Classe 1950, stavo venendo. Classe 1950, occhiali da vista. Un bell'uomo? Non ha parte dei capelli. Fortissimi tic agli occhi dopo un incidente, come dire, che solo le persone che sono dietro le quinte sanno com'è stato, insomma. Diciamo che gli Elohim non vanno visti troppo da vicino. Ma a proposito di... Guardare il sole, sì, acceca. Decisamente. Ma introduciamo un po' il multiforme e variegato pensiero di Mauro Biglino. Ci sono molte cose di cui parlare. Abbiamo detto della lettura della Bibbia, abbiamo accennato ai... O meglio, forse, sì. Rilettura, direi. Riscrittura, forse? Riscrittura, perché possiamo... no? Ermeneutica? Interpretazione. Ci dice... Il ricercatore. Ortolettura. Precisa il professore. Parole incomprensibili da parte del professore. Maestoso, maestoso. Quali sono, cari ricercatori, professori del DUSA, quelli che avete ritrovato essere voi i cardini, diciamo, del multiforme pensiero del Biglino? Allora, sicuramente un punto importante, prima di tutto vorrei agganciarmi a quello che ha detto il, per fortuna non mio, dottorando poco tempo fa, ossia ha asserito che io utilizzi un lessico troppo professorale, e 30 secondi dopo ha detto grossa grossezza, quindi ecco, forse è meglio essere un po' più professorali piuttosto che dire queste cose. Comunque, un punto... Io ho detto che lei è pedante, semplicemente questo. Però il mio italiano, eh? O no? Comunque... Anche quello è pedante? Comunque, un punto importante, secondo me, del pensiero dell'esimio collega è il fatto di correttamente opporsi alla narrativa, diciamo, scientifica, ma in questo caso anche più specificamente religiosa dominante, facendo notare che, insomma, nel momento in cui noi dobbiamo credere al parto di una vergine, dobbiamo credere alla resurrezione della carne, o dobbiamo credere alla doppia natura di una creatura che è stata generata ma non creata, insomma, tutte queste bizzarrie che vengono tramandate da quel residuo folcloristico che è la religione cristiana, allora tanto vale, insomma, smettere di credere che esista questa distinzione fittizia tra scienza e pseudoscienza e abbracciare finalmente la libertà conoscitiva. E inoltre, un punto fondamentale, chiaramente, è che nel momento in cui si decide di leggere la Bibbia, va letta come è scritta, cioè per intero, compresi i cosiddetti Vangeli apocrifi che vengono stigmatizzati da parte della Chiesa. In realtà, insomma, fanno parte del corpus ecclesiastico tanto quanto i Vangeli ufficiali. Ecco, no, prego maestro. No, dicevo, infatti una lettura proprio letteraria della Bibbia, dei testi sacri, in questo senso, e mi riveniva in mente, sempre ritornando sul momento dell'esodo del popolo ebraico in questo deserto, che praticamente loro vengono guidati dall'angelo del Signore. E l'angelo del Signore di notte è un fuoco nel cielo affinché lo potessero vedere, e di giorno è nero. L'angelo del Signore, sì, quando scende nella tenda di Mosè, il popolo ebraico si deve allontanare, perché se no vengono bruciati e qualcuno ci è rimasto secco. L'angelo del Signore è una navicella. Esatto, è la famosa gloria di Dio. La gloria di Dio, esattamente. Che esatto, in realtà, professore, è così? Ovviamente è così, insomma. Accidenti. Ma poi lei, professore, scusi, di solaristica, ma ci diceva nella scorsa puntata, fra i molti campi della solaristica, il suo spiccato indirizzo è quello teologico, giusto? Precisamente, infatti diciamo che per quanto le elucubrazioni di Biglino non siano tra le più raffinate, sicuramente è un parresiasta in questa società di scientisti e positivisti che, insomma, tanto ci appesta. Ecco, ma tutte verità esattamente letterarie da leggere così come tali sono quelle che troviamo nella Bibbia? Beh, chiaramente sì, voglio dire, il nostro Dio è evidentemente un alieno, specificamente il Dio di cui mi occupo io, insomma, ne ho già parlato diffusamente nella scorsa puntata, però ecco, chiaramente, insomma, l'opera di Biglino è da apprezzare, è lodevole, fa una grande sensibilizzazione ai temi alienisti, sebbene appunto lui decida sistematicamente di anteporre i suoi discorsi questa postilla della finzione, perché ha paura chiaramente di essere eliminato dai poteri forti, e noi lo comprendiamo, però ecco, forse questo mestiere non è fatto per tutti. Vorrei un attimo intromettermi. Chiaramente la solaristica è un argomento così ampio e così intenso che probabilmente il professore ha perduto la mente studiandola. Però Biglino non sostiene che il nostro Dio sia forzatamente un extraterrestre. Ma? Semplicemente lo mette tra le ipotesi. Okay. Lui dice, c'erano queste entità, gli Elohim, questa specie. E chi sono se non alieni, allora? Potevano tranquillamente essere delle entità superiori, dei maestri sconosciuti. Maestri, anche loro. Degli uomini evoluti dal passato. Questo non si sa. Biglino semplicemente ipotizza che possano essere alieni, ma non dice che sono necessariamente alieni. E questo è un punto molto fondamentale nella tesi. Il dottorando è un pavidone, esattamente come il mio collega Mauro. Ma qui ci sono due tesi, quindi contrapposte in questo senso, mi pare di capire. Nel senso, da un lato la certezza in qualche maniera che siano delle razze aliene, dall'altro la possibilità che lo siano, ma non solo, se ho capito bene, provo a fare un'ipotesi. Quindi un'altra civiltà che era stanziata sulla Terra più evoluta? Può essere, può essere. Biglino, ripeto, non è sicuro dell'entità extraterrestre di questi Elohim. Lui semplicemente traduce letteralmente quello che è scritto nella Bibbia ebraica. Elohim è al plurale. E perciò non riguarda soltanto un'unica entità, Dio, in questo caso specifico Geova, che semplicemente è un maestro militare che guida il popolo ebraico. A non si sa bene cosa. E in realtà Biglino poi spiega come veniva guidato questo popolo, certo. In vari modi. E uno era anche quello visivo che si è detto prima. Poi c'era anche, come dire, la comunicazione con dei privilegiati in qualche modo. C'era Mosè, tutto il resto. Poi assolutamente. Però dobbiamo anche. Dobbiamo anche ricordare una questione molto importante. Gli Elohim non sono composti soltanto dalla popolazione che guidava, che ha creato l'uomo, o meglio, l'essere umano. Gli Adamiti. Esatto, nei discendenti di Abramo. C'erano diverse specie di Elohim che si sono stanziate nei diversi punti della Terra. Ecco, questo è molto interessante, questo è un aspetto interessantissimo. Sì, è importante precisare. Ed è il motivo per cui molti miti, diciamo delle popolazioni che abitano la Terra, si assomigliano, perché gli Elohim si assomigliavano, e perciò noi troviamo delle congruenze all'interno della mitologia indiana, norrena e se vogliamo anche greca, romana e certo, balcanica. Sì, il filo si riesce a raggomitolare. Voglio fare una domanda adesso, visto che siamo in argomento, una domanda a cui, a onor del vero, il qui presente professore, io non temo a dire le cose come stanno, ha rinunciato a rispondere nella scorsa puntata, quando lei, caro ricercatore, non era qui con noi presente, ovvero quanto tutte le antiche religioni, così come tutte quelle monoteiste, insomma, hanno a che fare con la questione del sole, del solstizio e del periodo delle stagioni. Anche questo anche a che fare con la presenza degli Elohim e con la loro presenza da mitica, insomma. Posso fare una sì, parentesi. Anche perché l'ho posta così male, grazie. Quindi c'è un, come dire, non solo hanno programmato l'essere umano, ma hanno programmato in qualche modo anche il pianeta Terra, stai supponendo questo? Sì. Okay. Esatto, è assolutamente così. La Terra ha subito delle fortissime trasformazioni da parte di questa entità, chiamiamola entità per il momento. E diciamo, perché è così importante il sole, la luce, le stagioni? Sono qualcosa che è stato ricombinato con la tecnologia degli Elohim. Sono stati in grado di costruire le stagioni, di portare la Terra ad essere quella, diciamo, che conosciamo, cioè un ammasso roccioso abitabile nell'universo. Ed è uno dei motivi per cui si discute sull'abitabilità degli altri pianeti, perché gli Elohim, diciamo, sappiamo che erano sulla Terra, ma si sono inoltrati anche negli altri pianeti. E se sì, la vita che si trova negli altri pianeti è data proprio da queste entità, Questa è una domanda molto interessante. Come una sorta di antichi terraformatori, in qualche modo. Ma io vorrei ritornare sul discorso della tecnologia, appunto, di questi Elohim, perché lo stesso Biglino poi si sofferma in particolar modo su una creazione in particolare tecnologica degli Elohim che in qualche modo poi interagisce con questo popolo eletto in qualche modo, no? È l'arca dell'alleanza in questo senso qui. Secondo l'interpretazione di Biglino, questa arca dell'alleanza in realtà altro non è che un dispositivo tecnologico di natura nucleare. Ah. Professore, sì. Che dice? Sì, precisamente, voglio dire, oltre alla già citata, diciamo, individuazione della capacità degli Elohim, dell'utilizzo dell'ingegneria genetica, grazie alla quale avrebbero creato non solo gli Adamiti, ma anche le Eve, cioè, diciamo, le femmine di Adamiti a partire dal DNA degli Adamiti, sono... Sarebbe il mito della Genesi questo, della costola, il famoso... Il mito, maestro. Maestro, anche è vero, in effetti, anch'io... Mi scadi su queste parole. Certo, dico il mito perché non voglio avallare la tradizione cattolico-cristiana. In questa misura, certo, ok, ci d'accordo. Ci mancherebbe. Diciamo, ecco, abbiamo capito che insomma il termine mito è un po' retro. Comunque, tra le varie tecnologie in possesso degli Elohim era sicuramente presente la propulsione nucleare, ma anche l'utilizzo insomma di una probabile... fusione nucleare che insomma noi solo da poco abbiamo recuperato, ma che i nostri superiori sconosciuti chiaramente erano... E a quanto pare la utilizzavano però come arma anche questa e allo stesso tempo per fare anche del bene, però c'è questa ambivalenza. Certo, si capisce bene, l'arca dell'alleanza è capace, mi scusi professore, di distruggere ma allo stesso tempo di creare e di fare del bene, di nutrire addirittura. Beh, cosa siamo in grado di fare noi umani se non di creare e di distruggere? Certo, cioè allo stesso modo. E noi che non siamo che pallide... A immagine e somiglianza. Appunto, somiglianze dei nostri antichi genitori. Certo. Ma ma più tardi la pongo questa domanda perché svia... Benissimo. Ecco, molto velocemente sulla questione del distruggere, ricordiamo che uno dei passaggi più brillanti e illuminanti di Biglino è quello nel quale da una rilettura del... della figura del Giovanni Battista, il quale avrebbe fatto rimettere i peccati alle persone, diciamo... Ricorda tutti, Giovanni Battista è il cugino di Gesù. Esatto, colui che mangiava il miele del deserto e le locuste, era vestito di... un mantello di agnello. Esatto, e urlava nel deserto, era la voce nel deserto che annunciava la venuta del Messia. Urlava nel deserto. Urla inarticolate di una sofferenza inaudita. E poi era suo cugino. Cioè, nel senso, perché è andato a urlare nel deserto che stava arrivando suo cugino? Cioè, singolare come cosa. E comunque Biglino fa notare che diciamo nella teologia ebraica l'unica persona che è in grado di rimettere i peccati al peccatore non è nemmeno il rabbino, ma è solo diciamo la figura divina. Quindi evidentemente queste persone che si recavano da Giovanni il Battista apparentemente per rimettere i peccati, a una rilettura etimologica più attenta si giunge al fatto che costoro si presentavano di fronte a lui come dei rinnegati, dei filibustieri si presentano a un impresario di mercenari affermando quello che essi avevano effettivamente fatto per mostrare di avere il fegato tale da poter entrare a far parte dell'esercito che Giovanni Battista stava assemblando proprio perché Yahweh era uno degli Elohim, era uno degli Elohim e specificamente era il comandante degli Adamiti che poi avrebbero dovuto insomma aiutarlo a estendere il proprio dominio. Professore, io sono un fan di questa teoria. Ha fatto allargare le braccia e abbassare la mascella al maestro, professore. Complimenti, non l'avevo mai visto. Questa è farina del sacco di Biglino, però insomma. Non la sapevo questa, però è interessante, molto interessante. Lei condivide tutto questo, professore, giusto per... Sì, soprattutto condivido la spinta revanchista e nazionalista, insomma. Come no? Ma voi del DUSA, giusto per precisare anche un attimo questa questione, l'abbiamo introdotta anche nella prima puntata col maestro, quando parlavamo della prima delle specie aliene che abbiamo curato come rubrica. Ma Elohim o Anunnaki sono diversi? Maestro, sì. Bella domanda. Ti è piaciuta? Sì, perché si potrebbe dire che sì, nel ma senso, anche no. Ma anche no. Allora, io la metto in questi termini qui, un po' come la racconta anche Biglino alla fine, eh. È proprio quello che Biglino ci dice in realtà. Ce n'è più di uno, infatti Elohim è plurale, quindi non ci sbagliamo, diceva prima il ricercatore. Però dove sono questi Elohim e con chi hanno a che fare? Sono più di uno dislocati in punti diversi del pianeta, in punti diversi del globo, e hanno a che fare con popolazioni umane diverse, quindi. Anche quelle che sono le teorie di matrice della vita, in qualche modo, oppure quelle che sono le teorie della culla dell'umanità, no? In qualche modo, che per tanto tempo si è detta l'Africa, il Nord Africa, poi si è detto no, c'è stata anche nell'isola di Giava, no? C'è stato anche in Alaska, c'è stato insomma un po'. Ora a quanto pare mi sembra sono 6 o 7 gli spot sulla Terra, se non di più, dove ha dovuto, come dire, in qualche modo ha preso piede la vita. O la specie umana in qualche modo. Posso aprire questa parentesi? Gli spot campo. Nella Terra in superficie, perché in superficie, poi c'è anche superficie. Tutta la Terra all'interno della Terra stessa, che insomma anche lì sono diversi. Chiaro, diversi chiaro. Punti nevralgici in cui Due si punti. Dice essere nata la vita. E in questo senso, ogni come dire, popolazione diversa ha probabilmente avuto a che fare con un Elohim diverso, con un Annunaco forse, chissà. Di Annunaki in realtà ne parla di più Sitchin su tutta la storia di Nibiru, che ci siamo già stati diverse puntate fa. Però in questo senso potremmo forse definire due specie diverse, non due nomi diversi della stessa, in fondo. Non lo sappiamo bene, perché comunque hanno caratteristiche simili. Sono terraformatori in qualche modo, sono ingegneri genetici in qualche modo, sono portatori di una conoscenza e di un fuoco di Prometeo che in qualche modo rende, porta l'umanità su un altro livello ad un certo punto. Professore, d'accordo con te, maestro, vedo. Comunque una certa. Sì. Ma guardate, anche gli abitanti di Krypton alla fine sono dei terraformatori, però sono una specie a sé stante, nata nel pianeta da cui prendono appunto il nome, e poi si sono evoluti a tal punto da potersi permettere dei viaggi spaziali di breve durata per colonizzare lo spazio a loro circostante. È il nostro destino questo? Noi del DUSA ci stiamo lavorando. Grazie. Sì, grazie per tutto questo lavoro, e volevo fare un'altra domanda, magari prima di mettere poi un'altra canzone. Parlavamo di Adamo ed Eva, della genesi dell'umanità, insomma, in qualche modo, ma il serpente che ruolo ha in questo? Sì, professore, prego, sì. Allora, su questo punto diciamo che Biglino si inerpica lungo un versante un po' tecnico, diciamo che lui utilizza il metodo analogico per sostenere che come dire, la dimensione sessuale della quale Adamo ed Eva ab origine erano sprovvisti sia stata insegnata a Eva, o per meglio dire a una delle Eve, da parte del serpente. Il serpente di fatto, quindi, nel momento in cui offre il frutto ad Eva, che ricordiamo come si dice, l'immaginario della mela, in realtà è una cosa posteriore, perché la Bibbia non parla di mele, parla di un generico frutto. Siamo, come dire, poteva essere un mango anche, quindi. Poteva essere una papaya, come cantava un altro collega, quanto è Gaia la papaya. Però ecco, diciamo che sarebbe un modo grazioso e politicamente corretto di parlare di un rapporto sessuale, quindi offrire il frutto e consumare il frutto sarebbe fondamentalmente, come dicono gli inglesi, pop the cherry, quindi insomma avere un rapporto sessuale. Quindi il serpente altro non sarebbe che un Elohim, evidentemente un Elohim un po' frizzantino, che avrebbe insegnato a Eva la dimensione sessuale, e quindi effettivamente una forma di conoscenza che evidentemente al capo degli Elohim non andava particolarmente bene. Ella poi avrebbe fatto assaggiare a sua volta il frutto ad Adamo, che quindi, diciamo, in questa dimensione metaforica sarebbe l'idea per la quale il primo rapporto sessuale non è stato tra umani, ma è stato tra un'umana e un Elohim, e poi, diciamo, tra due umani, ossia specificamente Adamo ed Eva. Da questo primo rapporto tra il serpente e Eva sarebbe poi nato Caino. Non mi stupisce che nel primo rapporto sessuale della storia l'uomo non c'entra assolutamente niente. Questo mi sembra abbastanza... Ancora una volta, professore, comunque mi vedo costretto a correggerla. La Bibbia non parla proprio di frutti. E concluderei poi la mia... Quindi non poteva essere neanche un mango. No, non poteva, non poteva. E questo è una totale allegoria. E concludo poi la mia argomentazione dicendo che a seguito di queste scoperte possiamo dire con efficacia che il cobra non è un serpente. No, va bene, ma scusate, un'ultima piccola domanda. Lo so che c'è il pezzo pronto, ma... E quindi è stata un'ibridazione sessuale quella che è stata fatta? Sì, perché di fatto alla fine da ciò risulta che Caino non è propriamente un essere umano. Non, perché non è nato, come dire, grazie all'ingegneria genetica, quindi verosimilmente in qualche vasca su questa terra avvolta dal brodo primordiale, ma da un vero e proprio rapporto che la cui fertilità chiaramente era resa possibile dalla stessa immagine e somiglianza sulla base della quale erano stati creati, certo, gli Adamiti e le Eve. Ma solo Caino o anche Abele, scusate? No, in realtà Abele è il figlio del, ecco, del rapporto, diciamo, omologo tra Adamo ed Eva, tra un Adamo e una delle Eve. Certo, e quindi la negatività e la malvagità di Caino è da ricercare anche in questo. Esatto, che poi, come dire, è anche coerente con l'immagine, insomma, del serpente come una sorta di allegoria vetrotestamentaria di Satana, che in questa idea, diciamo, non è sullo stesso livello di Yahweh. Anche perché se non fosse così, non ha senso da dove arrivano questi qui. Cioè, nel senso, a livello genealogico anche, se c'era un uomo e una donna, come fanno ad esserci dopo una generazione ad essere in 20? Cioè, nel senso, non ha molto senso. Va bene, scusate, cari ascoltatori di Radio Wombat, se non eravate pronti a tutte queste profondità, noi comunque ve le stiamo offrendo, mettiamo un pezzaccio e vi lasciamo un attimo riposare. Allora, nel momento in cui eravamo a microfono spento, stavi raccontando, maestro, qualcosa che sembrava una barzelletta. Dicevi c'era un ebreo, un imam, un rabbino, un imam, un prete, com'era? Sì, esatto, praticamente un rappresentante spirituale di ogni credo, di ogni... Ora, ogni credo sarebbe anche troppo, in realtà sono stati, hanno risposto, come dire, alla chiamata del professor Biglino alcuni di questi rappresentanti, tra cui un rabbino, tra cui un sacerdote della religione cattolica cristiana, un altro della religione, se non sbaglio, avventista, c'era un rappresentante, non credo ci fosse un rappresentante dell'Islam, però penso che ci fosse un rappresentante del buddismo, se non sbaglio. C'era anche un rappresentante, sì, buddista, sì. E insomma, avevano risposto a questa chiamata che era la seguente. Provate a smontarmi. Ah, biglinone così. Sì, arrogante. Tipo in una conferenza, metti in una hall di un hotel. Sì, vedila cosa... anche come un ring se vuoi. In che città era, te lo ricordi? A Roma. No, o a Torino, non mi ricordo se era a Torino. No, era a Torino. Era a Torino perché il rabbino ad un certo punto deve andare via. C'è tutto il video su YouTube, lo potete trovare. Perché deve ritornare a Roma. Sì. Ma cosa succede in questo incontro? Succede che vengono poste praticamente diverse domande da una sorta di arbitro imparziale che pone le domande, e a queste domande rispondono tutti, Biglino compreso. Biglino si ritaglia in ogni domanda, diciamo, il posto d'onore e risponde per ultimo. Questa può sembrare una banalità, ma in realtà per chi conosce le regole dello spettacolo è una cosa fondamentale. Ricordiamo Eminem nel suo film, alla fine, nell'ultima gara rap, fa proprio questo, risponde da sempre la parola all'altro, la canzone all'altro per rispondere. Sì, ma mi pare che ci sia nell'ultima che parla lui per primo. Sì, ma perché perde la moneta del testa e croce, perciò l'altro gli dice vai, inizia tu, e però a quel punto ormai era già navigato dal resto del contest, sì, certo, e perciò certo, l'ha certo. Spaccato. Ha fatto esatto, una cosa simile, Biglino. Scommetto che questo, professore, lei non lo sapeva, Ma in questa radio trasmettete un po' di Shostakovich, di John Cage, di non lo so. Grazie professore, io penso che nelle prossime puntate accoglieremo sicuramente la sua richiesta musicale. Sì, noi comunque pianisti perché... di Putin. No, allora, Shostakovich sicuramente lo manderemo qualcosa di Mussorgsky, ma sicuramente... E manderemo anche, per rimanere in tema anche, il famoso quartetto che contiene anche alcuni temi della musica folclorica ebraica. Molto bello. Lo faremo, lo mandiamo. Ma l'ordine delle domande che venivano poste in questa conferenza qual era? Cioè, tipo, di che tipo erano le domande? Erano tutte domande che riguardavano l'interpretazione dei testi sacri alla quale si è dedicata principalmente, alla quale si è dedicato Biglino principalmente all'interno dei suoi studi decennali, quasi direi. E in qualche modo voleva essere, penso che Biglino in questo modo volesse fare anche un po' una summa, una sorta di grande sunto di quella che era poi di quella che è effettivamente la sua teoria, e quindi descriverla nelle sue strutture e nelle sue idee portanti. Il fatto singolare è che in nessuna delle domande poste, in nessuno di questi posti, nessuno dei punti eviscerati viene contraddetto Biglino, e soprattutto vorrei soffermarmi su questo punto, non viene contraddetto da un diretto interessato, che è in questo caso il rappresentante rabbino della religione ebraica, in questo caso, che si sente chiamato in causa personalmente più volte perché i testi, come dire, su cui Biglino è andato a lavorare sono quelli della sua religione, del suo credo principalmente. Volevate dire qualcosa? Sì, a me piacerebbe intervenire un attimo e dire semplicemente che contestare Biglino è veramente difficile. È difficile perché lui fa un lavoro sul linguaggio e purtroppo, mi dispiace dirlo, devo dare ragione al professore qua con me, lavorare sul linguaggio quando qualcuno lavora sul linguaggio è davvero complicato, riuscire in qualche modo ad argomentargli contro. E perciò sì, contestare Biglino è una delle diciamo argomentazioni più difficili che qualcuno può trovare. Noi al DUSA abbiamo un laboratorio fatto apposta per trovare soluzioni alle argomentazioni di Biglino. Un laboratorio che è finanziato anche dagli Stati Uniti. Voglio farlo presente. Certo, a cui Biglino, nel senso, in questo caso partecipa come collaboratore esterno oppure è ignaro di questo? No, tipo di lavoro? No, è chiaramente un antagonista, non è ignaro, ma sappiamo tutti che negli Stati Uniti c'è un forte sentimento religioso teologico e perciò lavorano per, diciamo, smontare, usiamo questo termine molto, molto grezzo, smontare le tesi di Biglino. Certo. Ecco, io mi rendo conto che è una domanda scomoda e non so se si può rispondere, ma lo Stato illegittimo di Israele esso stesso finanzia le vostre ricerche oppure no? Beh, mettiamola in questo modo, sicuramente se rimangono delle vestigia del famoso regno revanchista e nazionalista portato avanti da uno degli Elohim, che era per l'appunto Yahweh, sappiamo dove andare a cercarle. Molto bene, molto bene, molto bene. Maestro, chi è quello dopo il rabbino che se l'è cavata meglio? Perché ho capito che il rabbino era quello più forte. Allora, quello che dopo se l'è cavata meglio non è il sacerdote, ve lo stavate chiedendo tutti, no, non è il sacerdote, che anzi sembrava piuttosto, ma direi poco interessato anche alla questione. Quello che se l'è cavata meglio di tutti direi che è quello della religione, sì, avventista. Minoritario, si è sentito chiamato in causa più volte anche, soprattutto quando si andavano a toccare l'interpretazione dei testi sacri. Lui stesso, il rappresentante della religione avventista, portando un'ulteriore interpretazione diversa appunto rispetto a quella che fanno la religione cattolico-cristiana o la religione ebraica. Quindi era anche, come dire, sembrava piuttosto gasato da questa cosa, dire che è bello che tutti stiamo rileggendo in maniera diversa la Bibbia, però effettivamente lì c'era uno che stava dicendo ma questa è la verità. Lui forse non se n'era tanto accorto di questa cosa, però era, gli piaceva l'idea di parlarne, questo è sicuro. Che volevo dire, professore? Sì, volevo dire che non vedo difficile per un presbitero che si muove nella tradizione protestante il non essere particolarmente legato a una dimensione dogmatica nella lettura della Bibbia, nella misura in cui, insomma, molto spesso l'implementazione di un dogma che sembra assolutamente illogico e, come dire, antintuitivo, fa parte della stessa forza del dogma, cioè nella misura in cui tu riesci a implementare un dogma proprio perché ne richiedi la credenza nonostante la tua possibilità effettiva di credere. Possiamo formulare un teorema, nel senso, tanto più il dogma è antintuitivo quanto è più facilmente permeabile all'interno di una di un uditorio. Diciamo che forse teorema è una parola un po' forte, però ecco, sicuramente c'è una corrispondenza di questo tipo, e proprio perché una proporzione, esatto, insomma. Proprio perché il, come dire, le religioni, o meglio, diciamo, le diramazioni della religione cristiana e del protestantesimo sono state avvocate fin dall'inizio di una lettura più libera della Bibbia, sicuramente hanno piacere, o meglio, più che piacere, tollerano meglio un'operazione come quella di Biglino rispetto, insomma, alla Chiesa, che in una data precisa ha stabilito che il figlio era generato e non creato, in un'altra data ha stabilito il dogma dell'Immacolata Concezione, in un'altra ha stabilito il celibato dei preti. Quindi, insomma, i dogmi stessi vengono utilizzati nella loro graniticità per portare avanti il sistema di credenze, di pensiero. Verità in pillole. Ma mi domandavo, ma in sostanza quindi stiamo affermando che il contenuto della Bibbia, dell'Antico e del Nuovo Testamento, sicuramente dell'Antico, sono... Sicuramente dell'Antico, sicuramente dell'Antico, ma anche un po' del Nuovo. Ma anche parte del Nuovo, sono cronache storiche in sostanza, no? Sì, cronache storiche come cronache fantasy, come... Cronache storiche o cronache fantasy? Che differenza c'è? Che una è vera e l'altra no? No, No, scusa, maestro. La differenza è che una la conoscono più persone perché credono anche che sia stata vissuta da più persone, ma io credo che la storia sia la fucina di racconti fantasy più grande che c'è nel mondo. Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua storia in questo caso. Io, se posso intervenire, devo dire che sì, la Bibbia è un resoconto storico ricostruito attraverso l'immaginario dell'essere umano che non aveva ancora la possibilità di, in qualche modo, scrivere o comunque tener traccia su qualcosa di duraturo delle sue, chiamiamole così, avventure. E a un certo punto è subentrata appunto la scrittura, è subentrato un metodo per lasciare il ricordo di quello che succedeva e, diciamo, questo ricordo passato che si era mescolato un po' a questo immaginario umano che rendeva appunto in senso mitico e forse anche più pomposo ciò che era successo nel passato è stato riscritto nei papiri, nelle pergamene, certo. Ma anche nelle rocce, semplicemente. Ricordiamo che Maometto lasciava, la sua parola anche sulla semplice, la semplice foglia, su tutto quello che riusciva a trovare. E infatti molto è andato perduto. Quali sono, faccio un'ultima domanda, cari voi ricercatori, professori del DUSA, le religioni in generale con le quali avete più, affinità ideologica? Sono quelle monoteiste oppure no? Sono quelle animiste oppure quali? Allora, diciamo, parlando personalmente, io mi sento affine a una prospettiva deistica all'illuminismo francese, nella misura in cui credo che il dio d'elezione che io ho scelto è Solaris, ed è un dio il cui comportamento va indagato secondo un metodo razionale, senza immaginarlo come una potenza terribile. Quindi ecco, diciamo sì, una dimensione più di ammirazione speculativa. Apro di nuovo questa ennesima parentesi. Da queste parole si può capire che il professore forse dovrebbe andare in pensione e prendersi una bella vacanza. E io personalmente non mi rispecchio in nessuna di queste prospettive. Affermo il mio personale ateismo e il mio amore per la ricerca. Io in realtà so che il dottorando, il suo unico dio è la squadra fiorentina, visto che l'ho sentito più volte dire morte ai gobbi, quindi ecco, insomma, forse. Mi faccio molto scusi, voleva replicare oppure sì? No, ne approfitto perché sì. L'ultima volta che sono stato qua, diciamo, un mio amico sapeva che sarei venuto e mi ha detto salutami in radio, e al contrario del professore qua presente, io effettivamente ho degli amici, ho qualcuno con cui uscire e perciò, diciamo, non vivo a casa con un ologramma e perciò intanto vorrei... quella è mia moglie. Non è reale, professore, non è reale. E vorrei salutare appunto Alessandro Tonizzi, mio carissimo amico, mi segue sempre e mi scrive delle grandissime bellissime lettere ogni volta che vado giù nella terra interna. E noi non vediamo l'ora di vederla tornare su la prossima volta che scende per raccontarci ancora mirabolanti storie dal regno di sotto. Spero di riuscire a tornare. In realtà quello che non vi ho detto è che molto spesso i ricercatori della Terra Cava non tornano perché vengono sbranati da strane e ferocissime creature. Gli inconvenienti del mestiere. L'amore per la conoscenza fa anche questo, ti fa superare la paura del rischio. Noi ringraziamo a maggior ragione per avervi qui in questi momenti così, come dire, di rilassamento all'interno di tutto il vostro lavoro e impegno. Grazie davvero. Ricordiamo magari che l'amore non è bello se non è litigarello, e così il DUSA, direi. Sì, qualcosa del genere. Comunque, in ogni caso, Il sito per domanda è sempre sotto attacco oppure ci sono state delle novità rispetto all'ultima volta? Parlavamo del sito internet. Parlo io perché chiaramente il professore non sa neanche cosa sia internet. E, ho visto, è scosso la testa il professore. Come dire, il sito è ancora purtroppo in manutenzione. L'attacco hacker rettiliano sta addirittura continuando. E noi però stiamo lavorando efficacemente per contrastarlo, contrastare i rettiliani. Potete dormire tranquillamente con le porte aperte, perché sappiate, finché il DUSA rimane aperto, finché il DUSA continua ad esistere, i rettiliani non invaderanno mai, i rettiliani malvagi non invaderanno mai questa terra. E noi vi ringraziamo di cuore e dal profondo, lo facciamo noi e sono convinto lo sta facendo chiunque ci stia ascoltando e anche tutti gli altri. Quindi fra due mercoledì ringraziamo di nuovo il Dipartimento di Ufologia e Scienze Alienistiche, DUSA Firenze su Instagram, fin tanto che non sarà risolto il momento dell'attacco rettiliano. Caro maestro, che altro dire se non un ciao tipo? Io una cosa ce l'ho. Sì, sì. Non abbiate paura di aprire gli occhi nel buio, perché non è da lì che respirate. We got it, we've launched it. Loose communication. Bravo Tango, Bravo Tango.